croise des tourtereaux dans les serres des vautours. Certains font des affaires, d'autres font l'amour. Chacun refait le monde et le monde se retrouve autour d'une table ronde à boire toute sa peine. On traverse les murs dans le jardin des rêves, des kilomètres de route, des centaines de fois. On voyage à l'arrière d'un train de nuit sans froid, des kilomètres de route, des centaines de fois. On voyage à l'arrière d'un train de nuit sans froid. Eu caminhei tanto sem saber por onde andar, que tudo que era meu foi indo pelo mar. Sei, o meglio quale non sarai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Oggi il 20 ottobre siamo ancora in diretta con voi, con la cara Tiziana e il nostro caro amico Leandro, che purtroppo non c'è. Ciao a tutti. Ciao, e questa sera abbiamo un ospite speciale che vi sveleremo solo più tardi, e diciamo che la puntata parte in maniera proprio improvvisa. Alternativa, mi piace questa parola. Però ricordiamo, sì, oggi attimo... non abbiamo solo un ospite, abbiamo tutta una situazione particolare, inaspettata, che ci darà delle sorprese. Diciamo che c'è la casa china, come si suol dire in siciliano. Bene, ma a noi ci piace la compagnia. E ricorderei ai nostri cari amici che ci ascoltano di farsi sentire innanzitutto sulla pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro Neir, e ancora il numero di telefono, chiamateci per sentire chi risponderà al telefono, perché potrebbe rispondere una voce austriaca o una voce nord europea o chissà quante altre sorprese. Dunque, allo 02 345 26 56. Per chi chiama dall'Italia bisogna aggiungere lo 0039, ragazzi, oppure mandateci un messaggio allo 0 l'ha imparato o ancora no? Perché di solito il messaggio è sul numero di Leandro. Chiediamo il numero di Leandro. Sì, ma Leandro ce lo manda con i piccioni viaggiatori. Allora diamo il mio numero? Sì, dai. Vai, segnatevelo tutti che avete questa occasione imperdibile, ragazzi. 0032 479 13 5564. Mi raccomando, fatevi sentire. E quindi rieccoci in trasmissione con i colori dell'anima. Tiziana, di che cosa parliamo questa sera? Perché allora, i colori dell'anima? Innanzitutto, i colori dell'anima, lo diciamo sempre. Per quale motivo i colori dell'anima? Perché a noi piace, e anche l'obiettivo della trasmissione è quello di raccontare un po' quali sono le sfumature dell'animo umano. Quindi parlare sempre di qualcuno, raccontare una storia, far parlare qualcuno, in modo da dare voce a quelle che sono le varie sfumature dell'animo umano. Sì, Tiziana, ancora tu con queste sfumature dell'animo umano. Io direi che questa sera parliamo, pensiamo a una cosa un pochino più concreta. Pensiamo un po' alla panza, che qua non ci si pensa mai. Per esempio, scusa. Per esempio, io parlerei di cose un po' speciali, di passioni culinarie. E che ti sembra che le passioni culinarie non abbiano delle sfumature, dei colori, dei sapori? Fa tutto parte della sfera sensoriale. Ah, allora ci avevi pensato pure tu. Certo che ci avevamo pensato. Siamo sempre in tema, noi non andiamo mai fuori tema. Meno male. E allora io direi che partiamo subito con una canzone molto particolare che si chiama Rossetto e Cioccolato, della nostra carissima Ornella Vanoni, che parla proprio di donne, cucina e tanto tanto altro ancora. E vai! Ci vuol passione molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, prosciutto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, zucchera a vela, la gola è soddisfatta, e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco, e ci si mastica poco a poco. Si fa così, è tutto apparecchiato, per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente. Quei bei peccati succedono. Ed eccoci tornati ancora in studio. Allora, parliamo di dolci, abbiamo detto, una puntata tutta particolare. Una puntata anche tutta al femminile, aggiungerei io. Sì, sì, sì, sì, le donne non mancano in questo studio oggi, decisamente. E allora io partirei con il presentarle. Abbiamo con noi Maria questa sera, abbiamo con noi Barbara e abbiamo con noi Cristina. Ciao. Ciao. Praticamente questa. Quante donne. Hai visto qua, ragazzi, venite tutti questa sera, vi aspettiamo al Centre de Culture de Saint-Gilles. E no, a parte gli scherzi, questa è una bella opportunità questa sera, perché abbiamo questa joint puntata, perché si sono unite le squadre di la nostra squadra, ecco, Tiziana e io, con Cristina e Barbara, che fanno appunto, sono un altro team dei Coloni dell'Anima, perché come sapete la nostra trasmissione ha quattro team diversi che vanno in onda ogni lunedì, e quindi questa sera ci siamo ritrovati tutti insieme appassionatamente, abbiamo detto ma se diciamo anche inaspettatamente sorpresa. Ma sì, ci piacciono nelle sorprese. Ma sì, sono un'occasione per fare cose diverse. Esattamente, quindi parliamo un po' di dolci, mettiamolo un po' al femminile, visto che siamo tutte queste belle ragazze qui insieme. E appunto questa sera abbiamo invitato anche Maria, perché Maria ha una passione particolare per i dolci. Voi dovete sapere che Maria è una nostra carissima amica del coro, e tutte le cene che noi facciamo, perché noi alla panza ci pensiamo sempre in realtà, e lei ci propone dei dolci meravigliosi. Maria, come fai? Si prova piano piano e escono prima o poi. Vabbè, io ci provo da 31 anni, è un disastro. Ecco, ecco, la calma, con la calma. La calma, sì. Quindi questo è il segreto, lo sveliamo subito alle 9:10, il segreto del ce ne sono tanti altri, però bene. Quello principale è la... è la calma, e stare calmi. Ma io dico che ci vuole un po' di passione anche. Diciamo anche. Che se non ci metti la passione non ti riescono. Sì, no, neanche. Questo è vero, è vero. Come ti è venuta a te questa passione, Maria? Ma io ho sempre visto la mia mamma in casa che cucinava, e cucinava principalmente dolci. Mm-hmm. E niente, fin quando ero piccolina ho tantissime foto da piccola con... di io che faccio la torta piuttosto che altro. Ah, quindi una passione sin da piccola. Sì, sì, sì. C'è chi le torte le mangiava e c'era la torta le faceva, e così ecco, gira in casa la mia non si mangiano le torte, si fanno solamente. Bene, adesso allora sarà per questo che io non li so fare, io li so mangiare. Ora ho capito. Per chi ci segue fino alla fine della puntata daremo l'indirizzo di casa di Maria, chiaramente, dove poter andare a degustare i dolci. Ma con noi in studio ci sono anche Barbara e Cristina. Voi ragazze piace fare i dolci? Avete anche voi una passione per i dolci? O siete pure della scuola? Io me le mangio i dolci, io sono di quella scuola di sicuro. Ma a me piace farli, puoi mangiarli anche, però non sono più persona, non so se si dice, però salata che dolce. Uh-huh. Quindi preferisco le cose salate, però mi piace fare i dolci, quindi li faccio quando devo, non so, sono invitata e poi posso portare, o quando invito io gente a uh-huh. casa, perché sennò... Tipo, ho provato una torta, per esempio, 2 settimane fa, sì. Una torta nuova, una ricetta che ho visto su internet, ho detto, proviamo, tipo, pasta sfrollata, si dice? Pasta frolla. Con tipo un tipo di mousse budino sopra, e poi si possono mettere anche della frutta, e mi piaceva tanto l'idea, l'ho fatta. Ho fatto un po' troppo di quel tipo budino, quindi poi ho messo il budino perché in diverse coppette e le ho ancora in frigo, tipo... va bene, allora sappiamo dove andare dopo la puntata. Quante sorprese questa sera! No, io invece sono una che i dolci mi piace farli, ma mi piace anche mangiarli. E a casa mia i dolci non durano nel frigorifero. Quindi se vi invito dovete venire al momento. Se non c'è più niente. E poi mi piace anche provare le ricette nuove, anche salate, straniere. Infatti mi cimento spesso con la cucina internazionale. Ah, bene, mi sa che... allora a breve ci darai anche una ricetta. Salato dolce, direi più dolce perché siamo nel tema del dolce, quindi. Sì, sì, sì. Bene, abbiamo un buon mix, c'è chi mangia, c'è chi cucina, qui stasera andiamo tutti da Barbara a capire com'è sto dolce, mezzo budino, mezza crema, mezza pasta frolla, sfoglia, benissimo. E invece Maria, tornerei un po' a te perché volevo chiederti, mi è incuriosito questa cosa che hai detto, appunto che ci vuole la calma per fare dolce, perché ad esempio io, a me piace molto cucinare, posso passare le ore a cucinare, però non posso fare una torta. posso farti, no, una lasagna tirata a mano, i ravioli, quello che vuoi, però... Ma io direi anche 3-4 piatti insieme. Sì, arancini, quello che vuoi, però appena viene una torta mi viene una beep, non si può mangiare. Io Io veramente ho fatto questa puntata perché dobbiamo capire il segreto del dolce. Perché beh, questo Maria ha fatto un dolce veramente eccezionale. Ah sì? Ah sì? No, sì, l'altra volta ci siamo leccati i baffi. Sì, vabbè, ma Maria si scorda. Il rotolone? Il rotolo? Il rotolo, no, no, no, no. L'abbiamo già mangiato prima di entrare. È già sparito? No. No, però ecco, è vero che Maria fa tanti dolci speciali, particolari, e ci mette tanta pazienza. Tante volte pare. Sono anche ricette molto semplici che trovi su internet e poi, sapendo i segreti base, avanzi, cioè migliori la ricetta, piuttosto che mischi due ricette insieme. O... Ah, quindi sei anche molto creativa. Nel sì, mi piace sperimentare, poi se viene bene meglio, nel senso che si può condividere. Senti, si sono capitati anche, vabbè, perché dopo tanti successi ti sarà capitato anche una situazione in cui un dolce è venuto un po' strano. Lieviti dimenticati. Il timone. Sì, sì. Beh, secondo me però è la mia influenza, io, dire la verità. Io in realtà ho anche concordo. Bene, allora sappiamo che Maria e Tiziana insieme. Mi agita. Mai. Le faccio perdere la pazienza, forse. Quindi poi manca quella manca quell'ingrediente fondamentale. No, ma io invece vi racconto questa, un'esperienza bellissima. Mia mamma fece un dolce per Natale, quindi ecco una evenienza in cui tutti noi stiamo ora a cucinare, a preparare. E a posto di mettere lo zucchero a velo, sale. Mise una bella spolverata abbondante di bicarbonato. Quindi salutiamo, ciao mamma. Mi dispiace di aver condividiamo questo momento, però poi alla fine abbiamo soffiato intensamente e ce la siamo mangiata. Ah, ve la siete mangiata? Eccetto. Perché io ho un episodio, ancora un aneddoto un po' peggiore di questo, perché una volta ho preparato una torta che, quando ho visto la fotografia sul libro, ho detto la voglio. Ed era una torta con pasta frolla, le pere e una crema di uova senza latte, perché io faccio i dolci senza latte. E quando ho assaggiato, il gusto di questa torta era salato. Era salato, amaro, perché ho sbagliato. Oh, oh. Quale ingrediente ho sbagliato? Allora io vorrei partire un sondaggio, cari ascoltatori. Quale elemento ho sbagliato? Nella torta, Cristina. Ma la cosa più brutta è stata che la torta era bellissima, era proprio un incanto. Vabbè, ma le sorprese ci vogliono, hai sorpreso tutti, no? Vabbè. E direi di sì. E invece tu, Maria, raccontaci un po' da dove vieni, perché noi non ti abbiamo soltanto detto, ti abbiamo introdotto come la ragazza che fa i dolci, però come i nostri radioascoltatori avranno capito, tu non sei siciliana come di solito, siamo qua una colonia di siciliani, questa sera invece abbiamo... No, mai portato un siciliano qui in trasmissione. Infatti, va bene. Abbiamo invece Maria che viene dal profondo nord. Sì, vengo da Bergamo. Da Bergamo, dove non ci sono dolci. Ah, ecco, quindi scopriamo anche un'altra eccezionalità del posto esatto. Di Bergamo. E cosa fai qui a Bruxelles, Maria? Ok, a Bruxelles ho appena finito i miei studi e adesso cerco di... Di aprire una pasticceria? Sì, in qualche modo di avviarmi al mondo del lavoro. E può essere un'idea la pasticceria, se mi va male dall'altra parte. So che qualcosa secondo me posso ti conviene, fare. Guarda che ci guadagni. Mi sa anche a me, ma vediamo. E quindi tu qui a Bruxelles c'hai una bella cucina equipaggiata per fare dei dolci? Sì, quello sì. Fai tutti gli strumenti sì, necessari? Perché vivo anche con la mia coinquilina, che è spagnola. Uh-huh. Ci tiene tantissimo, ho lavorato anche lei in una pasticceria, quindi ci dilettiamo insieme a fare dolci, quindi il frullatore non può mancare, la paletta, le uova non mancano mai da noi, uova, farina, zucchero. Ah, ci sono gli ingredienti base. Sì, esatto. Quindi avete anche il forno, perché qua non tutti gli appartamenti hanno il ma forno. Guarda, l'abbiamo sempre cercata la casa con il forno, ormai sono 2 anni che viviamo insieme e quando al momento di cambiare casa, sia la prima che la seconda volta, era un requisito fondamentale per noi, perché anche per me. Ogni settimana più o meno facciamo una torta o un qualcosa. Anch'io. Hai visto? Di solito si cerca la casa luminosa, la casa con il bagno bello, con il bel salotto. Allora cercano il forno, mi sembra giusto. Ognuno ha le sue priorità. E allora io vi interrompo per mandare la prossima canzone, che è sempre sul tema dei dolci, sempre sul tema del mangiare, e ha tutto un significato un po' particolare. Scopriamole insieme. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa. In onda con i colori dell'anima, oggi 20 ottobre, siamo in diretta dalla la Maison de Culture de Saint-Gilles con uno studio gremito di belle donzelle. Puntata specialissima in cui si parla di dolci momenti, di dolci passioni. Abbiamo con noi Maria, Barbara, Cristina e la nostra carissima Tiziana che fa la regista. Ci provo, diciamo. Ma ci riesci anche bene. Regista, dai. Non esageriamo. E quindi dopo questa bella canzone, dolce, salato, io passerei a qualche ricettina, no Maria, che dici? Che, perché tu hai tanti segreti da condividere con noi, allora condividiamolo con chi ci ascolta. Va bene. Allora, visto che hai citato il rotolo di pan di Spagna, potremmo spiegare il rotolo. Penna in mano, penna in mano! Io ce l'ho. Bene, le ragazze sono attive qui. Beh, il rotolo l'avevamo fatto per i celiaci, no? Ti ricordi? Avevamo fatto con la farina di riso. Sì, bravissima, perché però... Maria è pure carinissima, che mi fa le di dolci che posso mangiare anche io, perché non posso mangiare il glutine, quindi yuhu, grazie Maria, pubblicamente. Se aumentate un po' le dosi, viene normale, cioè lo fate con la farina normale. Quindi ci vogliono 50 grammi di farina, se usate quella di riso. Altrimenti sono 80-90, poi andate un po' anche a occhio, perché io vado molto a occhio. Benissimo. Secondo me è quello che mi frega a me. Faccio entrare ad occhio. Vabbè, Tiziana, ti regaliamo un paio d'occhiali nuovi. Maria, continua, grazie. Poi ci sono 80 grammi di zucchero e se la volete fare di cacao... sono 2 cucchiai di cacao in polvere, cacao amaro. Da aggiungere, esatto, all'impasto. E basta, il pane di Spagna... Come basta? Come lo dobbiamo fare? Cioè metti tutte le cose insieme? Sì, metti tutte le cose insieme, uh-huh. Però il segreto è quello di... come si dice? Di mixarli. Di setacciarli, tu mi dicevi, di setacciare la farina. Setacciare sempre la farina. Sempre la farina. Perché così gli dai aria, uh-huh. si divide meglio... non so come spiegarlo, passa l'aria tra i granulini della farina, uh-huh. diventa meno grumosa e poi lievita meglio, diventa molto più soffice. D'accordo. Esatto. E c'è chi separa, oddio, c'è chi mette gli ingredienti un po' tutti insieme, c'è chi li metti adagio adagio, però col pan di Spagna puoi metterli tutti insieme. Puoi anche metterli tutti insieme. Il segreto del pan di Spagna è lavorarlo tantissimo. Però ecco, tu ci consigli di lavorarle con delle fruste elettriche, ovviamente, sì, sennò per farlo gonfiare proprio come dicevi esatto, tu. Esatto, è perché non si mette il lievito, quindi lo gonfi, cioè più lo lavori, più si sostituisce il lievito. E poi c'erano anche 3 uova, che l'ho dimenticato. Volevo dire, c'è manca vabbè, la nessuno, cosa... Nessuno ha capito niente di questo dolce, ma meglio così. Rielenchiamo gli ingredienti. Quindi 3 uova, 80 grammi di zucchero, 50 di farina e se si vuole 2 cucchiai di cacao amaro. Bene. Si mescola il tutto? Sì, si mescola il tutto, e anche poi? Senza separare le uova, però per 20 minuti. 20 cioè, minuti con le fruste? Sì, sì. Benissimo. E questo... questa lavorazione di 20 minuti sostituisce di fatto il lievito. E conferisce morbidezza al dolce. Esatto. Dopodiché lo inforniamo. Lo inforni. Perché questo è un rotolo, quindi non ha la forma della torta. No, viene della spianato. Torta, bisogna... Ma dobbiamo prendere una teglia quadrata, diciamo. Sì, una teglia. Insomma, la teglia del forno, la teglia normale. Della pizza, ecco la teglia. Sì. Si mette la carta forno, la si imburra perché sennò si attacca all'impasto. Mm-hmm. E poi si stende questa crema, perché alla fine è molto cremoso l'impasto, però si tende a dargli una forma già squadrata e di farlo più o meno di 1 centimetro, mezzo centimetro. Benissimo. E poi lo si informa per veramente 10-15 minuti a 160 gradi. Uh-huh. E poi lo vedete come inizia a essere dorato, si tira fuori dal forno. Bene. Ragazzi, a me sta venendo l'acquolina in bocca. Poi andiamo a casa di Barbara, abbiamo detto, non c'è problema. E poi che si fa con questo? Poi quando è pronto, uh-huh. deve essere leggermente dorato. Tu vedi quando è pronto perché è leggermente dorato. E deve restare morbido. Eh sì, ma quella è la parte più difficile. La togli dal forno e io cosa ho fatto? L'ultima volta l'ho scaravoltato con due teglie, una sopra l'altra, dove avevo messo un altro pezzo di carta forno. E in questo modo hai una carta forno sopra e una carta forno sotto alla tua torta. Sì. E poi la rotoli subito quando è caldo, perché sennò non riesci, sennò si spezza. Non gli metti niente, lo lasci raffreddare arrotolato. In modo che prende la forma praticamente. Sì, perché se lo arrotoli quando è freddo si spezza. Ah, ok. Ecco, scrivete bene questo passaggio, ecco, lì a casa. Questo è il segreto dello chef. E poi lo puoi riempire con come in vuoi. Realtà con quello che ti va, con la crema chantilly, con con la crema chantilly l'hanno provato con Tiziana, però non rende tanto. Mm-hmm. Qual è la tua combinazione preferita? La crema pasticcera. Ecco. Io faccio da cavi, avete capito? mannaggia. Ma lo riempi freddo? Sì. Sì, una volta che si è raffreddato. E non si rompe poi, perché devi riaprire. No, no, perché tu quando è umido, devi calcolare che quando lo tiri fuori dal forno, come si dice, è ancora caldino, ma è anche umido. Mm-hmm. Quindi se tu lo arrotoli subito, dopo prende una certa elasticità e non si rompe più. Okay. Certo. Non devi bisogna essere delicati, un po' cauti, però insomma, non arrotoli proprio con la carta su se stesso, sì, con la carta in mezzo, perché sennò, ecco, si appiccica, sennò si appiccica. Ah, ecco. Per quello che metti le carte da tutte e due le parti e poi lo arrotoli. Okay. Mm-hmm. Non troppo stretto, perché sennò si rompe. Una via di mezzo, diciamo. Poi dipende anche, sarebbe una cosa facile. Sì, è facile. hai capito? No? La presentazione. Ah, meno male. Allora, non sono solo io stavo zitta, non volevo parlare, ho detto poi faccio quella che non sa fare nulla. vabbè. E quindi niente. Bene Maria, abbiamo scritto tutto, siamo pronti un'altra a fare domanda. Questo dolce. Bene, ma dopo quando hai messo però veloce crema? Veloce che dobbiamo passare alla prossima canzone. Certo, quando ci hai messo la crema lo metti in frigo? Sì. Ok. Perché la crema pasticcera va in frigo. Lo metti in frigo fino a quando poi si può mangiare. Sì, può anche starci una notte, anzi è meglio se sta una notte intera, perché la crema pasticcera si prende... no, la pasta frolla, il pan di Spagna rimane comunque molto morbido, però si amalgama bene con la crema pasticcera, è un po' come il tiramisù, se lo lasci una notte diventa perfetto, uguale. Okay. Oh, quindi fare riposare prima di mangiare, benissimo. Senti, ma allora sentiamo questa canzone, perché il segreto in realtà del retolone di Maria è ascoltare questa canzone. Per ascoltare la musica proprio di sottofondo, questo è esatto, il trucco fondamentale. Per diventare speciale. E che canzone ci metti? E allora ci mettiamo Per colpa di chi? Di Zucchero. Oh, oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. E allora, eccoci tornati in studio dopo questa canzone che mi sa che per fare una cosa con calma, tranquilla, con la pazienza non ha nulla a che vedere. Ora mi devi spiegare, Maria, cosa intendi tu per pazienza, calma, fare attenzione, perché io non ho qualcosa che non mi quadra. Sottofondo, vabbè. Io faccio sempre i dolci quando sono agitata e nervosa. Quindi mi calma il fatto di fare il dolce e di ascoltare la musica. Bene. Questo quindi, tipo di musica molto rilassante. Sì. Ok, a posto. Calcola che a volte ci sono come sottofondo i Linkin Park, quindi. Mamma mia, poveri vicini, però poi vai a letti, dice, volete assaggiare il mio nuovo dolce? E quindi ecco perché non si lamenta nessuno. Hai visto? C'è tutto, c'è soluzione a tutto. Ma attenzione, io te la faccio un misto. Bene, bene. Ma io avrei voglia di parlare invece, visto che abbiamo appunto due altri ospiti in studio con noi, di dolci un po' del mondo, di altre ricette, perché fino a ora abbiamo parlato un po' di dolci italiani, ecco, insomma, il rotolo, il tipico sì. Rotolo di Bergamo, è famosissimo il rotolo di Bergamo. E perché io, niente, mi sono un po' incuriosita e sono andata un po' a leggere su internet quali sono i dolci più famosi nel mondo. E ho trovato che uno dei dolci più conosciuti è la famosa Sacher torta. E per fortuna questa sera abbiamo Barbara che potrà illustrarci la storia, o magari ecco confermare quello che ho letto io su internet, perché ho letto che è stata fatta per la prima volta nel 1832 da un pasticcere di soli 16 anni, un certo Franz Sacher, che praticamente quel giorno sostituiva uno chef che era ammalato e fece questa torta per il principe von Mitterlich-Wilhelmsburg, che spero che l'abbia pronunciato bene, poi ci dici tu. E quindi decise di improvvisare questo dolce con della cioccolata e con della marmellata fresca e avrebbe un gran successo, e da quel momento non rimpiazzò più soltanto lo chef ammalato, ma diventò ecco un primo chef e addirittura pochi anni dopo aprì un albergo con il figlio e che è diventato uno dei hotel più famosi di Vienna, in cui c'è appunto la storica torta Sacher, che riscuote successo in tutto il mondo. No, la storia, questa storia del sedicenne che ha rimpiazzato l'altro chef, non la conoscevo, però sicuramente sarà vera. Però è vero che c'è l'hotel e il caffè Sacher in centro, proprio di fronte all'opera, proprio centro di Vienna, ed è lì puoi comprare le torte in diverse grandezze, sì. Misure, per portartele. Ti danno un piccolo box di legno molto carino. Ah, ti danno pure un pacchettino di legno dove mettere. Sì, dove legno. Poi lì dentro c'è la torta che puoi anche conservare per un mese. Se riesci a non mangiartela. Se riesci a non mangiartela. Però quindi è un regalo carino se vai, tipo, certo. Noi quando siamo andati in Inghilterra nelle famiglie abbiamo sempre portato una torta Sacher e tutti erano, oh, la torta Sacher! Certo! No, quindi, e se no c'è anche il caffè, puoi anche restare lì e mangiarti la fetta di torta. O altri dolci, perché non è che fanno solo quello, ci sono altri dolci a Vienna comunque che sono conosciuti, però è vero, la Sacher torta è la più famosa. È una delle più famose. Ed è uno dei tuoi dolci preferiti? O... Io devo dire che a me, io preferisco la torta Sacher fatta in casa, non quella che si compra all'albergo, perché al caffè, perché è molto dolce, secondo me. Per me, io posso mangiare un piccolo pezzo e sto bene per tutta la giornata con zucchero, così. Però la Sacher torta si fa anche a casa, ogni famiglia la fa a casa e ognuno ha la sua ricetta, certo. Un po' speciale. Però la cosa che fa la Sacher torta, che la distingue dalle altre torte al cioccolato, è proprio la marmellata. Sì, che metti due strati di marmellata. Dall'albicocca. O albicocca o, come si chiama, la frutta piccola rossa. Ciliegie. No, non ciliegie. I mirtilli. I mirtilli, credo, sì, quelli rossi, proprio. Mirtilli. o quella, okay, quindi albicocca o quella. Ma invece io ho pensato di farla con la marmellata di arance. Secondo te è troppo forte il gusto? Mi piacerebbe provarla con la marmellata di arance. Se a te piace la marmellata di arance, secondo me non è male, perché il cioccolato con l'arance va bene. Però certo il gusto sarà sì, il gusto diverso. Se non ti piace l'arancia, allora forse no. Però certo, secondo me è interessante, sì sì, potrebbe andare. Bene, allora poi mi dà la ricetta e io ci metto la marmellata all'arancia. Allora noi ci fermiamo un attimo per lanciare un'altra canzone che questa volta ci presenta Cristina. Sì, ascoltiamo una canzone dei Radio Dervish, un gruppo barese-libanese, che si chiama L'esigenza, ed è una canzone tranquilla per concentrarsi quando si fanno i dolci. Maria per te. Grazie. Ragazzi, niente, non si sente, c'è un piccolo problema tecnico di regia, quindi continuiamo a parlare e vediamo se si risolve. Va bene, allora noi continuiamo con i dolci, direi, perché appunto questa sera parliamo di dolci con Cristina e con Maria, che ci hanno raccontato un po', Maria ci ha dato questa ricetta fantastica del rotolone e Barbara ci ha parlato un po' della Sacher torta. Adesso invece vi volevo chiedere, ragazze, se voi avete un dolce preferito, nel senso che vi ricorda un po' la vostra infanzia, un po' il dolce che quando eravate piccole avevate sempre voglia di fare, perché magari così stavate con la mamma, con la nonna, perché c'era una cosa che vi piaceva fare. Ad esempio a me mi piaceva sempre leccare l'insalatiera quando tutto era pronto. sì, se c'è qualche ricordo di un dolce ricordo. Ma di un dolce particolare no, perché appunto in casa si facevano veramente sempre. Però da piccola io non mangiavo dolci, ero molto, e sono ancora molto difficile sui dolci. Ecco, scoperta. No, mi piace farli ma non mi piace mangiarli, veramente. Meraviglia, non ti preoccupare Maria, la soluzione a portata è proprio di fronte a te, direi. L'unica torta che mangiavo era la Saint-Honoré. E tutti gli anni per il mio compleanno c'era la pasticceria di Bergamo, che è quella torta a strati. Sì, è la torta a strati, mi sembra con i profiterol, se non sì, sbaglio. Con i profiterol finali, sì, sopra, che esatto, meraviglia. Esatto, era l'unica torta che mangiavo, era una vergogna perché era più calorica di tutte, penso. E mi pare giusto, ne devi mangiare una buona, no? Sì, esatto, è sempre costa. Ricordo se che... Se fai danno lo devi fare come si deve, sennò vabbè, che piacere c'è. Qui siamo tutti d'accordo. No, proprio ricordo che ogni compleanno era il mio regalo uno dei miei regali di compleanno era la torta. Come si chiama quella torta? La Saint-Honoré. Ah sì, ok, sì, sì, sì. No, per me devo dire che siccome hai chiesto un dolce che mi piaceva fare perché mi piacevano altri dolci, però per me è una cosa molto semplice ma che mi piaceva sempre e mi piace ancora, è fare le crepe. Ah, da noi sì, si chiamano palacinken in Austria. Come? Aspetta, non avevo capito. Palacinken, secondo me, è una parola che viene un po' dall'ungaro. Dal cinese viene. No, dall'ungaro. Io da crepe, pancake. Palacinken. Palacinken. Sì. È veramente la stessa cosa delle crepe. E quelle mi piacevano sempre farle insieme a mia mamma, poi farle saltare. Quando sono riuscita a non farla cadere, ero molto fiera di me. E anche tua mamma ha detto finalmente ce l'ha fatta. E allora, con questa ultima chicca che ci ha dato Barbara, proviamo a lanciare questa canzone sperando che non ci siano altri problemi. Vediamo se ci riusciamo. L'esigenza. L'esigenza di unirmi ogni volta con te, ogni volta mostrare la mia vanità, come dolce follia si interessa di me. Ma s'amore, perdonami, perché unendo divido anche il mondo a metà. Forse un angelo che si diverte così. Miele nel vino tu sei, piccola Venere. L'indifferenza ti fa altissima. Quando sto con me sono esempi perfetti di banalità. Se non parlo con te, se non parlo di te, ogni istante decidere, ma il mio corpo imperfetto non basta più a sé, ma una sete che so non mi lascerà. Mamma mia che bella, questa sì che è una canzone rilassante, brava Cristina, questa sì che è una canzone che mi mette nello stato d'animo giusto, non riuscivo più a staccarla, però dobbiamo andare avanti con la trasmissione perché il tempo vola. Io volevo un attimo salutare Chiara che ci ascolta con la febbre a 38, su forza Chiara che ti riprenderai presto, un bacione grosso grosso. E appena guarisci ti portiamo pure il dolce. Aspetta, aspetta, non ti sei sentita, ah, scusa. Sì. E appena guarisci Chiara ti portiamo pure un dolcetto. Sì, sì, dai. Sì. E io vorrei continuare con i saluti perché qui sulla pagina Facebook ci ha scritto Giusy Forlani. Qualcuno la conosce? No. È la mamma di Maria, mamma. Rullo di tamburi. E anche Dino Corpo che ci ascolta e dice grandi, forza. Quindi ciao, grazie. Dino, mamma mia, quanto tempo. Ci dobbiamo sentire. E fatevi sentire, mi raccomando, chiamate qua, non chiama nessuno, il telefono non suona. E invece però suoniamo noi, perché suoniamo con una bella ricetta questa sera di un altro dolce francese che ci prepara, che ci dirà Cristina, e che poi magari ce lo prepara pure con un po' di fortuna. Con piacere, con piacere. Allora, la mia ricetta è semplicissima, si chiama torta al cioccolato semplice. Ah, vediamo se è veramente semplice. Così. Abbiamo la giuria qui pronta. Okay. Bene. Allora, vi dico prima gli ingredienti. 200 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero, 50 g di farina, 4 uova e 150 g di burro o di olio di semi. Mm-hmm. Io personalmente uso l'olio di semi perché non uso il latte e derivati. E allora, la ricetta è semplicissima. Bravissima, dobbiamo fare un dolce insieme. Ok. Guarda che dopo non ti viene, stai attento. Perché sono Tiziana, ovviamente. Spargere voci. Metti la canzone, infatti. Ma cosa dell'altro? Allora, il procedimento è semplice. Bisogna fare sciogliere il cioccolato a bagnomaria e nel frattempo separare le uova, separare il bianco dal rosso e montare i bianchi a neve e lasciarli da parte. Poi si prende l'olio di semi e si mischia con lo zucchero. Poi aggiungiamo la cioccolata fusa nello zucchero con l'olio di semi. Poi ci aggiungiamo i rossi d'uovo, la farina, si mescola tutto e alla fine si aggiungono i bianchi montati a neve e si aggiungono molto lentamente, senza strapazzarli, ma accarezzandoli dall'alto verso il basso. Perché altrimenti si smontano. Infatti. Dopo un disastro. Sì. E quindi questo composto poi si mette al forno circa 20 minuti a una temperatura di 180 gradi. E si può aggiungere se si vuole aggiungere un tocco un po' più particolare, un po' di cannella oppure delle mandorle sminuzzate. Il tutto si mette al forno per circa 20 minuti e poi è una delizia. È praticamente come una, non lo so, dagli ingredienti mi sembra, mi ricorda un po' il moelleux au chocolat, quello che qui chiamano la torta quella morbida al cioccolato. Io non ho mai fatto il moelleux au chocolat, quindi non saprei dirti. Però questa tosta rimane umida o rimane umida, ecco, per questo mi ricorda un po' il moelleux au chocolat. Però non è proprio liquida come ecco, sì, ok. Però ricorda, gli ingredienti sono anche gli stessi della mousse al cioccolato, quindi è come prendere una mousse e metterla nel forno. È buonissima. E tanto fa anche l'olio. Resta così soffice anche perché metti l'olio. Probabilmente. Invece che al posto del burro. Sì. Ecco, un altro segreto che scopriamo qui insieme. E io invece, lo sai che ho provato a fare una torta simile a questa che hai detto tu. Ecco, poco tempo fa, perché ecco, ogni tanto mi piace superare i miei limiti, ho detto vabbè, una volta l'anno un dolce lo devo fare, quindi avevo comprato in realtà un preparato, perché per sbaglio pensavo che era un dolce, invece era un preparato per torte, ecco, se no non l'avrei mai comprato, e quindi insomma era praticamente un preparato per un dolce al cioccolato, però avevo visto un po' su internet e avevo notato questa ricetta in cui a una torta molto simile a quella che dicevi tu aggiungevano nel fondo della teglia delle framboise, dei lamponi, e poi mettevano su l'impasto e lo mettevano nel forno, e quindi questo conferiva un po' di amarostica alla torta, che a me piace molto l'accoppiata frutta cioccolata. Anche a me mi piace tanto. Ed era venuta buona, quindi un'altra piccola variante. Magari la prossima volta che facciamo la trasmissione insieme la porto. Sì, ma io pensavo proprio a questo, che noi dovremmo portarli questi dolci. Mi sta venendo un'acquolina e qui non abbiamo nulla. La trasmissione non si può mangiare. Io direi che tanto ci stiamo avvicinando al Natale, quindi. Ma sì, dai, io secondo me un'altra trasmissione sui dolci, dolci a tema magari, Natale, Pasqua, eccetera. Abbiamo talmente tante cose da dire, la trasmissione sta finendo e noi dobbiamo andare a chiusura. A proposito, abbiamo cominciato ricordando il fatto che la nostra trasmissione si chiama I colori dell'anima, e allora dobbiamo dargli un colore a questa trasmissione. Iniziateci a pensare, iniziate a proporre qualcosa se avete in mente un'idea già. Sì, esatto, quale colore poter dare i dolci? Beh, non è che sia proprio facile, però... Per me il marrone è tipo ecco, cioccolato. Arriva il marrone, che credo che sia forse la prima volta che qualcuno ci dice marrone, perché sembra altri colori. Il colore del cioccolato. Quindi abbiamo due marroni e Maria, tu? Sì, dire che concordo, marrone. Tu concordi? Benissimo, allora bianco è stato... e rosso, bianco della panna, rosso delle fragole, non mancano mai in una bella torta. Vabbò, bianco, rosso e marrone. C'è una volta che erano d'accordo. Tiziana, no, bianco e rosso. Vabbè, insomma. Insomma, abbiamo questo bel colore anche questa sera. E io prima di salutarvi, visto che noi siamo qui a Bruxelles, in questa bella città, e passeggiando per le vie del centro arrivano certi odori di cioccolato, come ben sappiamo, ma anche dei famosi gofr. Voi vi piacciono questi gofr, ragazze? Sì, sì. Buonissimi. Perché vi devo dire che praticamente ho scoperto questa cosa che me l'ha raccontato una ragazza belga, fiamminga, mi ha detto che lei era un'insegnante di inglese e una delle prime lezioni ci svelò questo segreto: qual è la differenza tra il gofr liégeoise e il gofr bruxelloise. Vedo che Barbara annuisce, quindi conosce, anche tu sei un amante di conseguenza. Allora ditemela, che io non l'ho mai capita. Quando me l'hanno spiegata, poi me la sono scordata. Ecco, allora, è molto semplice, perché il gofr bruxelloise ha un impasto più liquido e quindi... è un dolce più soffice ed ha la forma tipicamente rettangolare e si mangia molto spesso con appunto le fragole, la panna, così facciamo con la Tiziana, la cioccolata, con quello che è un po' meno dolce, direi, anche perché bravissima, esattamente, è proprio meno dolce nell'impasto, perché invece il gofr liégeoise all'interno c'ha la granella di zucchero e quindi lo rende già ecco, più dolce e fa tipo quell'effetto caramelized, non so, un po' caramellato sì, sì. Sopra, esatto, sì, sopra, cuoci. Sì, sì, sì. Che è buono, io preferisco quello. Però ad esempio quello anche di... Anche io. Ecco, allora abbiamo due liégeois. Tre. No, io di Bruxelles. Tu vai per il Bruxelles, sì. Tiziana? Io quello di Liège. Ah, apposta, allora vince Liège, mi sa. Perché appunto lei, questa la professoressa, si arrabbiava e diceva, ah, Bruxelles ormai non si capisce più niente, mettono il topping, i condimenti, anche su quello liégeois, che quindi viene troppo dolce, no? Sì, secondo me sì, io non potrei. Sì, lo mettono dovunque, sì, ma sì, è buono. Ecco, una nuova scuola, senza nuova... niente, senza proprio niente. Quella sì, brussellese, boh, con fragole, con tutto va bene, però l'altra no, secondo me. Concordo pienamente. Quella di Bruxelles senza niente. Ah, ok. Proprio perché è dolce. Perché non è dolce, esatto, perché ecco, come dicevamo, giustamente a Maria non piacciono molto i dolci, però li sai fare bene, Maria, quindi noi continueremo ad invitarti alle nostre cene, ovviamente. Grazie. E adesso possiamo svelare l'indirizzo di casa tua, finalmente, che stanno aspettando tutti questo. Ma quale vai, quello di Bergamo o questo di qui? Perché mi sa che mangiate di più a Bergamo. Bene, allora va bene quello di Bergamo. Poi lo pubblichiamo sulla pagina Facebook. Mamma sarà contenta. Sicuramente. Signora, si prepari che una mandria di affamati verranno a bussare alla porta molto, molto presto. Bene, ragazze, è stata veramente una puntata divertente, direi. E Tiziana voleva concludere con qualcosa, ma prima vorremmo salutare queste fantastiche ospite che ci hanno tenuto questa bella compagnia. Grazie Maria per essere stata con noi. Assolutamente sì, è stato un piacere. Grazie Barbara e Cristina per aver bussato all'improvviso alle 9:05. Cioè, è stata una ed sorpresa. Essere venite, oh, sì, abbiamo perso un Leandro per acquistare due belle ragazze. Non dovrei essere io a dirlo. Che penso, ecco, che Leandro ha appena scritto: bravissima, vive dolci, chi li fa e chi li magna. Però stasera ti ammazza il legnato per quello che hai detto, ma sono dettagli, cavoli tuoi. Leandro, ti aspettiamo. Scherzavo, la prossima puntata non vediamo l'ora che vieni anche tu. Sei molto convinta. Va bene, allora vi aspettiamo il prossimo lunedì, ragazzi, il lunedì 3 novembre, e buona serata. E noi volevamo chiudere facendo un piccolo omaggio a Genova con una canzone che piace tantissimo a Maria, e quindi la lascio presentare a lei. Oddio, allora si chiama Piazza Limonda di Francesco Guccini. E vai, ciao a tutti, alla ciao, prossima. Genova. Ciao.